Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti ad una nuova puntata di Salva Danaio da Deborah Rosciani. Ben ritrovati a tutti. Oggi, come promesso ieri, torniamo sul pacchetto anticrisi che sta passando in Parlamento e le misure che ci interessano più da vicino come consumatori, come utenti di servizi, come beneficiari di sconti fiscali. Proprio di questi parliamo oggi, tornando su un tema che a dicembre, ma anche in precedenza, ci ha fatto dedicare diverse puntate di Salva Danaio, vale a dire il cosiddetto ecosconto fiscale, il super bonus del 55% per i lavori di riqualificazione energetica di immobili, edifici, case, appartamenti, che è stato confermato con l'unica novità, nonostante le indicazioni di dicembre che erano sembrate del tutto contrarie, con l'unica novità che per gli interventi che verranno eseguiti nel 2009 e nel 2010 nelle nostre case, lo sconto fiscale sarà spalmato su 5 anni e non più su 3 come in vigore fino a questo momento. Quindi possono stare tranquilli tutti coloro che hanno avviato lavori di ristrutturazione o intendevano farlo appunto quest'anno o il prossimo anno e che temevano di perdere questo incentivo. Gli ultimi emendamenti correttivi apportati al provvedimento hanno cancellato inoltre la stretta retroattiva per le detrazioni introdotta appunto dal decreto nella sua versione originaria, così come è stato eliminato anche un altro aspetto che aveva spaventato non poco: l'obbligo della presentazione della domanda all'Agenzia delle Entrate per chiedere il riconoscimento alla detrazione. Allora, questo è il tema di questa mattina. Ovviamente non mancheranno, immaginiamo già, tutte le vostre curiosità e le vostre richieste di chiarimento, che potete inoltrare come sempre, se volete intervenire in diretta, all'800 24 00 24, oppure alle 349-238-6666. Con chi faremo il punto della situazione? Intanto con un super esperto del tema che interpelliamo sempre quando lo affrontiamo. Buongiorno a Luca De Stefani, esperto di temi fiscali per il Sole 24 Ore, che continua a scrivere di questo argomento da diverse settimane, se non mesi, se non anni. De Stefani, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Luca, e buongiorno anche invece ad una nuova ospite di Salva Danaio, qui come dire, il nostro consulente dal punto di vista tecnico per gli interventi di cui parliamo e che poi possono beneficiare appunto di questo incentivo fiscale, Valeria Erba, presidente dell'ANIT, l'Associazione Nazionale Isolamento Termico e Acustico. Benvenuta. Buongiorno. Numero verde, ve l'ho ricordato, il numero per gli SMS anche. Adesso un'occhiata alla borsa, che oggi sta vivendo una nuova giornata piuttosto pesante. Il mercato è già reduce da 3 sedute consecutive di ribasso. Oggi speravamo, auspicavamo un rimbalzo che questa mattina i mercati avevano tentato, così come è successo in Giappone, ma è fallito rapidamente, perché gli indici, poi, con le previsioni sull'economia europea che sono state divulgate dall'OCSE, ne parlavamo anche nel giornale radio, la borsa europea appunto ha virato rapidamente al ribasso e adesso torna a perdere terreno in misura considerevole. Londra meno 1,67, Francoforte sta perdendo l'1,42, Parigi perde un punto, Milano perde un punto percentuale, stanno andando di nuovo malissimo i titoli del comparto bancario, sono appunto i peggiori in assoluto. Per esempio a Parigi Société Générale perde il 7%, BNP Paribas sta perdendo il 6%, tornano a scendere anche i titoli del settore auto, ma oggi le maglie nere sono in assoluto i titoli del comparto cementiero per le prospettive negative che sono state date da una società tedesca del settore, Heidelberg Cement, speriamo di averla pronunciata correttamente, dubito. In ogni caso il titolo sta crollando del 13% e porta con sé tutti i titoli del settore in tutta Europa. Per esempio a Piazza Affari Italcementi è il peggior titolo e sta perdendo quasi 4 punti, meno 3 punti e mezzo per Autogrill, meno 3 punti per il Banco Popolare, per Unicredito, Buzzi Unicem meno 3, meno 2,8 per l'Atlantia ex Autostrade, segno più invece su Terna, più 1,30, l'Espresso più 1,25, Mediobanca più 0,8, più 0,7% per Tenaris. Oggi attendiamo numerosi dati economici dagli Stati Uniti come sempre, in particolar modo stasera alle 8 il Beige Book, il rapporto mensile della Banca Centrale Americana, ma soprattutto attendiamo la decisione di domani della Banca Centrale Europea sui tassi di interesse che, secondo la considerazione comune, l'impressione comune, dovrebbero essere portati al 2% nell'Eurozona, quindi lo vedremo. Lasciamo la borsa, vi ricordo un'ultima cosa, un'ultima informazione di servizio: è in corso a Roma dalle 9.30 di questa mattina la terza edizione del Forum Lavoro organizzato dal Sole 24 Ore, dagli esperti del Sole 24 Ore, dalla Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, a cui possono partecipare anche i lettori del Sole 24 Ore se vorranno, collegandosi al sito internet www.ilsole24ore.com/forum-lavoro. Se volete rivolgere a questi esperti quesiti sulle tematiche del lavoro, potrete accreditarvi, avere ancora Avete ancora qualche minuto di tempo per poterlo fare e se si riuscirà naturalmente otterrete anche la risposta in tempi rapidi. Lasciamo allora tutte queste informazioni alla borsa, andiamo al tema di questa mattina, ritorniamo sul bonus del 55% sui lavori di riqualificazione energetica degli edifici. Sul bonus energia il governo fa marcia indietro. Niente più stretta retroattiva, quindi, per la detrazione IRPEF del 55% sulle spese sostenute per la ristrutturazione volte al risparmio energetico. Questa la novità arrivata con l'ultima serie di emendamenti al decreto anticrisi, approvati dalle commissioni bilancio e finanze della Camera e ora al vaglio del Parlamento. È stata rivista la norma che modificava la disciplina della detraibilità fiscale degli interventi di riqualificazione energetica. Questa norma aveva posto un tetto e tolto l'automatismo, con effetto retroattivo, al cosiddetto bonus energia del 55%, sollevando un vespaio tra chi, singoli cittadini o imprese, aveva già compiuto dei lavori, anche molto costosi, contando proprio sulla detrazione. Ora, se la correzione passerà alla fase dell'aula, si dovrebbe tornare sostanzialmente alle regole previste prima del decreto, con l'unica differenza che per le spese sostenute dal 2009 in avanti, la detrazione sarà ripartita in 5 anni anziché in 3, come avveniva in passato. Resta inoltre dovuta la comunicazione all'Agenzia delle Entrate. L'agevolazione non sarà però subordinata alla copertura dei fondi stanziati. Ma in cosa consiste il bonus energia del 55%? Si tratta di una detrazione fiscale per tutti gli interventi di risparmio energetico, dall'installazione di pannelli solari sul tetto alla modernizzazione dell'impianto di climatizzazione secondo gli standard salva ambiente. Per richiederlo è necessario presentare domanda all'Enea e, scaduti i termini previsti per il silenzio assenso, attendere la restituzione del 55% della spesa sotto forma di bonus fiscale, d'ora in poi, in 5 rate annuali. 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi, per i vostri messaggi. Il numero è il 349 238 6666. Cominciamo con Luca De Stefani, allora il nostro esperto di tematiche fiscali. Rispetto alla formulazione del provvedimento di cui si era parlato tanto a dicembre e che aveva scompaginato non pochi piani di tutte quelle famiglie che erano in procinto di avviare, anche non solo famiglie, anche interi condomini, lavori anche corposi, no, di riqualificazione, di ristrutturazione del proprio edificio, del proprio appartamento, della propria casa, praticamente c'è stata, non dico una radicale, ma sicuramente quasi radicale marcia indietro. De Stefani. Certo, praticamente è stata completamente riscritta la parte del decreto anticrisi che riguarda la norma del 55%. Allora, precedentemente era previsto, appunto, questa manovra anticrisi aveva previsto a novembre l'invio obbligatorio all'Agenzia delle Entrate di una domanda, di un'istanza che doveva essere accettata dall'Agenzia delle Entrate, la quale doveva verificare se c'erano i fondi sufficienti per questo bonus. Ora, questa novità uscita appunto a novembre è stata eliminata completamente dal decreto, dagli emendamenti approvati la settimana scorsa dalla Commissione Bilancio, e prevede cosa? Per il 2008 non c'è nessun tipo di problema, nessun tipo di comunicazione, e le regole sono le stesse che c'erano nel 2007, e quindi si invierà all'Enea la comunicazione, una comunicazione che non deve essere approvata o vagliata, e si potrà avere il bonus fiscale del 55%. Per il 2008 e il 2009 invece abbiamo una semplice comunicazione da inviare all'Agenzia delle Entrate. Questa comunicazione però, ricordiamolo, non è soggetta ad un assenso, ad un via libera quindi dall'Agenzia delle Entrate. Una comunicazione che è di che tipo? È preventiva? Si deve comunicare all'Agenzia delle Entrate che si stanno avviando dei lavori o è successiva all'ultimazione dei lavori? La norma non lo dice. Non lo dice. Presumo sia comunque una comunicazione consuntiva, cioè dopo aver fatto i lavori, dopo aver quindi fatto i diversi pagamenti, dovrà essere fatta, presumo, questa comunicazione. Si farà magari in concomitanza con quella fatta all'Enea, no? Certo, forse sì. Magari ci saranno gli stessi 90 giorni, però questo aspetto non è definito, non è chiaro da quello che capiamo. C'è un ascoltatore che ci chiede subito come mi devo comportare per la prenotazione da fare dopo il 15 gennaio per la detrazione del 55% se non ci sono moduli disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate. A Daniele rispondiamo che questa data non ha più significato, De Stefani. Certamente. Ecco, la norma in vigore oggi prevederebbe questo, prevederebbe che entro domani, da domani anzi, poi bisognerebbe inviare questa comunicazione per prenotare questi fondi disponibili. Non c'è il modulo, non è presente, l'Agenzia delle Entrate non l'ha approvato, perché sta attendendo appunto la conversione in legge con le modifiche annunciate nei prossimi giorni di questo decreto. Se non verrà sicuramente, se verrà approvato l'emendamento definitivamente, questa domanda non verrà neanche approvata dall'Agenzia delle Entrate, quindi anche se il nostro contribuente domani invierà in un foglio una domanda fai da te, farà un lavoro inutile, non potrà essere presa in considerazione. E comunque questa, tra l'altro, questa questione della la richiesta, la famosa richiesta telematica all'Agenzia delle Entrate per la verifica del diritto all'incentivo, era stata veramente la cosa che forse aveva spaventato di più, perché potevamo immaginare cosa, se fosse rimasto tutto in piedi l'impianto della norma di dicembre, cosa Valeria Erba, cosa sarebbe potuto succedere domattina. No, più altro anche per il discorso che andava in ordine cronologico, ecco. Che prima arrivava, primo si beccava i soldi, come si suol dire. Tra l'altro tetti questa anche molto limitati, quindi molto da esaurire nel giro di un giorno, due giorni immagino. In un giorno. Comunque non enfatizziamo questi aspetti, visto che non ci sono più. Esatto. Che cosa fa l'ANIT, Valeria Erba? L'ANIT è l'Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico Acustico. A noi piace molto dire che è un'associazione culturale, nel senso che porta avanti la cultura per il benessere, per la buona progettazione a livello sia termico che acustico, quindi legata a un risparmio energetico ovviamente. È costituita da una novantina di aziende e liberi professionisti, quindi siamo un'associazione che rappresenta sia le imprese, le aziende che i liberi professionisti. Cerchiamo appunto, facciamo molta formazione, divulgazione e quant'altro, facciamo parte anche di gruppi di lavoro per le normative tecniche e molta ricerca proprio su nuovi materiali. Il nostro concetto è proprio anche il discorso del rispetto dell'ambiente, come rispettare l'ambiente anche costruendo nella maniera corretta, perché laddove poi dopo andiamo ad avere delle problematiche di dispersione, poi abbiamo degli impianti che funzionano troppo e quindi consumano energia e emettono, diciamo, CO2 in atmosfera, quindi è tutto molto correlato, e questo è un po' il nostro obiettivo, ecco, portare avanti questo discorso. Questo discorso del 55%, essendo le nostre aziende tutte aziende che lavorano nel risparmio energetico, sia produttori di materiali isolanti che di serramenti che di altre tipologie di materiali, è ovvio che noi ha toccato molto, anche perché in questi due anni non c'è soltanto stato un discorso di aumento del mercato di questa tipologia di lavori, ma c'è anche stato un discorso legato proprio al migliore costruzione, quindi le case che sono andate avanti in questo periodo sono state costruite in maniera migliore. Infatti, se si vedono anche i cartelloni, attualmente non si vede più vasca idromassaggio, ma si vede casa certificata in classe A, perché è proprio un concetto che sta venendo avanti e che noi portiamo avanti. Che ha assunto un rango diverso, insomma una dignità diversa. E sì, sono assolutamente discorsi tutti molto interessanti. Abbiamo avuto questo, come dire, sbandamento di dicembre, ma abbiamo spesso e volentieri anche parlato, adesso senza voler ovviamente né polemizzare sull'intervento né stare a commentarlo dal punto di vista politico, che non ci interessa. È stato un momento molto delicato in cui tutti i governi europei hanno dovuto prendere in mano una situazione economica delicatissima e si è cercato di vedere tutti quelli che potevano essere gli ambiti di intervento. Si è cercato di capire se anche questo potesse esserlo, c'è stata la sollevazione popolare, la grande marcia indietro che adesso accogliamo volentieri, perché così magari tanti lavori potranno andare avanti, e questo è anche un aspetto per l'economia italiana non indifferente. Allora, tra l'altro, adesso facciamo anche un punto, grazie a Valeria Erba, proprio di nuovo su tutte quelle che sono le, perché sono quattro grandi categorie per le quali è possibile chiedere questa detrazione, però ancora sul tema della retroattività vedo che non abbiamo chiarito tutti i dubbi. Guido da Taranto, buongiorno, ad inaugurare le chiamate dei nostri ascoltatori di questa mattina. Buongiorno. Buongiorno. Probabilmente la mia domanda è superata, la faccio lo stesso, estrema ratio, ma anche per mettere il dito nella piaga rispetto al precedente provvedimento, quello che è in superamento, cioè un lavoro terminato al limite, terminato in tutti i suoi aspetti, pagamenti, bonifici, dichiarazioni di termine lavori, entro il 31 dicembre 2008 scorso. Ha bisogno, può avere 90 giorni per dare tempo al certificatore di fare poi la comunicazione al tecnico, di fare la comunicazione all'ENEA. Per cui fino a, diciamo, fine marzo, questo sarebbe un tempo aperto per questa comunicazione. Come poteva conciliarsi con quel 15 gennaio, non si sta chiuso. Però, Guido, infatti c'è stata la marcia indietro, fermo. Perché questo è uno dei tanti aspetti problematici, quello che lei solleva. Detto questo, comunque lei ha terminato i lavori, ha fatto tutti i bonifici, credo che questo già la metta al riparo da qualsiasi situazione di incertezza. Guido, qual è il suo dubbio adesso, relativamente al suo caso, alla sua situazione? Ho chiamato molto presto a voi, non sapevo, non avevo ancora sentito tutto. Vabbè, comunque insomma non ce ne sarebbero più, diciamo, al limite. Però usa il condizionale, perché? No, non ce ne saranno più fino, diciamo, in teoria al 29-30 marzo si possono fare ancora le comunicazioni all'Enea rispetto ai lavori chiusi al limite il 31 dicembre del 2008. Quindi lei dice comunque a questa fase di limbo che secondo me non mi mette totalmente al riparo da eventuali rimarci indietro, anche perché il provvedimento sta passando in Parlamento, c'è la fiducia del governo oggi, però non vorrei che a fine gennaio ci troviamo qualche altra sorpresa. Io lo escludo. Valeria Erba. No, volevo solo rispondere al telespettatore, al radioascoltatore, perché per rispondere anche magari ad altri che hanno finito gli interventi nel 2008, adesso che cosa faccio? All'Enea sarà un tecnico abilitato e in realtà all'Enea la documentazione che va inviata all'Enea per via telematica la può fare anche il proprietario. Il proprietario può compilare la documentazione e mandarla all'Enea. Questa documentazione dovrà essere asseverata in un certo senso da un tecnico competente. Spesso e volentieri in associazione ci chiamano chiedendoci chi è questo tecnico che può fare questa asseverazione. Avevo già almeno 10 domande di ascoltatori Infatti, diversi su questo punto. È una domanda tipica. E l'asseverazione non è altro che una dichiarazione di un tecnico che dice: lei ha fatto, poniamo un esempio, la sostituzione dei serramenti, un esempio, l'esempio più semplice forse, i serramenti nuovi rispettano i limiti di risparmio energetico previsti dalla legge. Questa è la dichiarazione. Questo tecnico, l'asseverazione? Sì, l'asseverazione, sì, l'asseverazione. Perché, del tecnico. Per i serramenti, adesso ho fatto un esempio forse un po' che non ci quaglia, nel senso che per i serramenti in realtà può farlo anche il produttore dei serramenti. Per tutti gli altri interventi, pensiamo a un cappotto termico, il tecnico abilitato è, come è riportato nel decreto ministeriale del 19 febbraio del 2007, ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale, ordine o albo professionale. Quindi a questo punto questo tecnico dovrà fare una dichiarazione, l'asseverazione, chiamiamola come vogliamo, in cui dice sì, il cappotto termico che io ho fatto rispetta i limiti di risparmio energetico, nello specifico di trasmittanza termica, previsti dai limiti riportati nel decreto dell'11 marzo dell'anno scorso. L'unico rischio che corre il nostro ascoltatore di Taranto è che magari non abbia questa certificazione. Non abbia rispettato i limiti, però. Però questo non c'entra niente con il provvedimento del governo, con quello che era previsto, con quello che poi è stato cancellato, non c'entra nulla. Questo al limite è l'unico rischio, credo. No, l'unico rischio è questo, ma io suppongo che se qualche tecnico gli ha seguito il lavoro e gli ha detto che avrebbe potuto rispettare questi limiti. No, tra l'altro invece c'era l'altro aspetto che volevo affrontare con Luca De Stefani. In ogni caso, il nostro ascoltatore, se ha già pagato tutto con regolare bonifico entro il 31 dicembre, De Stefani, anche questo è un ulteriore motivo di rassicurazione, no, per l'ottenimento del beneficio fiscale. Anzi, forse il principale, direi. Certo. Ecco, l'emendamento approvato prevede appunto che per tutti i pagamenti sostenuti, le spese sostenute e i pagamenti fatti con bonifico bancario entro fine 2008, non c'è nessun problema, non vi è nessuna comunicazione da fare, consuntivo preventivo all'Agenzia delle Entrate, mentre abbiamo la comunicazione da fare all'Enea. Quindi già dalla prossima dichiarazione di redditi relativa al 2008 si potrà iniziare a detrarre il 55% della spesa. Ricordiamo che l'emendamento non modifica la norma in vigore in precedenza relativa alla ripartizione di questa spesa e quindi sarà possibile a scelta del contribuente scegliere di ripartire l'intero importo del 55% o in 3 o in 10 anni, anzi da 3 a 10, quindi anche 5, 6, 7 anni. Certo, no, tra l'altro io adesso so che sto rubando qualche secondo alla regia, però Antonino dalla provincia di Milano, io credo che forse le abbiamo risposto a quello che lei voleva chiederci. Esatto. O non ha, o ancora dubbi? No, la seconda domanda che avevo era proprio riguardo la possibilità di detrarre tra i 3 e i 10 anni. Ma la risposta me l'ha appena data adesso. Perfetto. Allora la possiamo salutare, se è a posto così. Grazie molte. Eccoci ritrovati in diretta con Valeria Erba. Stavamo dando un'occhiata, non perché vogliamo escludere le nostre conversazioni a microfoni spenti, Luca De Stefani, ma lui è appunto in collegamento telefonico. Le numerose domande che stanno arrivando sia all'800240024 che al 349-238-6666 sulla tematica legata appunto al riconoscimento del beneficio fiscale per chi esegue lavori di riqualificazione energetica della propria casa, del proprio immobile, e ancora non siamo riusciti a sgombrare completamente il campo dall'equivoco relativo alla comunicazione all'Agenzia sia delle entrate che bisogna fare per chi ha ultimato i lavori. Allora, Luca De Stefani, rimettiamo di nuovo i paletti intorno a questa questione. Per chi ha finito i lavori nel 2008, questa comunicazione all'Agenzia delle Entrate non la deve più fare. Sono stata abbastanza chiara? Esattamente. Esattamente, ci sarà una comunicazione da fare solo per i lavori effettuati nel 2009 e nel 2010, basta. Per il 2008 invece le regole sono le stesse in vigore prima del decreto anticrisi e quindi per il 2007. Per il 2008 non ci sono più i famosi tetti di spesa disponibili, per cui le risorse sono teoricamente illimitate, per cui per chi ha eseguito lavori non deve neanche da domani fare la famosa gara a chi si prenota per primo all'Agenzia delle Entrate per vedere se ha il diritto o meno al beneficio fiscale. È venuta a cadere questa ipotesi, visto che le misure anticrisi sono in corso di discussione in Parlamento con tutti gli emendamenti che sono stati apportati. Questo era stato tra l'altro un tema che era stato oggetto dei maggiori interventi, per cui state tranquilli, per il 2008 la situazione è a questo punto esattamente come era disciplinata in precedenza. Allora, abbiamo numerosi ascoltatori in attesa e avevo promesso a Giuliano di farlo intervenire subito dopo la nostra pausa. Giuliano, benvenuto. Buongiorno signora Debora, complimenti a lei e a tutte le donne come lei. Ah, meno male, grazie, questa è la prima volta che sento un complimento del genere, grazie. La mia domanda, dunque, nel 2007 io ho fatto installare le valvole termostatiche ai caloriferi, sì. Ed è un elemento che concorre al risparmio energetico. Sì. Ho completato l'opera di risparmio con l'installazione della caldaia a condensazione nel novembre dell'anno scorso. Sì. Non avendo portato in detrazione l'opera per le valvole, posso portarlo in detrazione quest'anno? Anche perché dico, installare le valvole termostatiche non significa avere a cura il risparmio. Sì, allora io credo che Valeria Erbe le possa dare un assenso. Allora, la valvola termostatica l'ha applicata ai caloriferi nel 2007, quindi i lavori li ha fatti 2 anni fa. La caldaia a condensazione ha completato i lavori invece nel 2008. Vedo un po' di incertezza sul volto di Valeria Erbe, Anit. Sì, allora, innanzitutto buongiorno. Il discorso legato alla riqualificazione dell'impianto termico, quindi alla ristrutturazione piuttosto che alla nuova installazione di un impianto termico, è legata a un unico intervento. Quindi lei l'intervento di sostituzione della caldaia, avendo messo, suppongo, comunque una caldaia che rispetta i limiti previsti per poter richiedere detrazione, nel qual caso una caldaia a condensazione sicuramente li rispetta, l'ha fatto in un certo periodo di tempo, mentre le valvole termostatiche le ha fatte in un periodo completamente diverso. Quindi vedo difficile che lei riesca a fare rientrare i due interventi. Sicuramente per la caldaia a condensazione l'ultimo intervento che ha fatto potrà richiederli. Le valvole termostatiche, secondo me, non può metterle dentro. Sentiamo che ne pensa Luca De Stefani. Sono d'accordo, l'incentivo riguarda la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale, quindi della caldaia, con una a condensazione e è fatto nel 2008, questo è stato fatto nel 2008, quindi sicuramente è agevolato, mentre per quanto riguarda il cambio delle valvole, questa è stata fatta precedentemente, pertanto non rientra. Se fosse stata fatta successivamente, poteva essere considerata la messa a punto del sistema di distribuzione come prevede la norma. Valeria Erba, allora io rifaccio il cappotto termico della mia casa, il tecnico abilitato mi firma l'asseverazione rispetto a questo intervento e quindi mi dice quanto risparmio energetico grazie a questo intervento riesco ad ottenere nella mia abitazione, ma le certificazioni tecniche non sono finite qua. No, allora, nel caso di interventi, e dico allora, gli interventi che rispettano appunto le detrazioni, per cui posso richiedere le detrazioni, sono fondamentalmente 4 in maniera molto veloce. Uno sono interventi globali, quindi qualsiasi tipologia di intervento che mi permette di ridurre il fabbisogno energetico del mio edificio ad un certo quid. Ci sono dei limiti ben previsti nel decreto dell'11 marzo. Il secondo intervento sono interventi singoli, ossia come in questo caso intervengo sulle pareti esterne, faccio un cappotto, sostituisco i serramenti piuttosto che faccio altri interventi singoli sulla copertura, sui pavimenti. Il terzo è appunto il discorso legato agli impianti e il quarto è l'installazione dei pannelli solari. Di questi 4 interventi nel 2007 era necessario per tutti, oltre all'asseverazione, anche l'attestato di certificazione energetica. Attestato di certificazione energetica è un attestato che riguarda l'edificio nel suo complesso, non la singola struttura. Per il 2008 è stata tolta la necessità dell'attestato di certificazione energetica per gli interventi di installazione di pannelli solari e di sostituzione dei serramenti. Quindi nel caso di cui stiamo parlando faccio un cappotto termico, avrò l'asseverazione del tecnico che mi dice che il cappotto rispetta una determinata resistenza termica, trasmittanza termica nello specifico, e dovrò avere anche l'attestato di certificazione energetica. Attestato di certificazione energetica in regione Lombardia deve essere fatto da un certificatore accreditato dalla regione. Non può essere fatto da un qualsiasi tecnico. Questo vale per le altre regioni anche, visto che ci rivolgiamo a tutto il pubblico, secondo me? Allora, ci sono alcune regioni che hanno legiferato per cui è obbligatoria la certificazione energetica, e sono Lombardia, Liguria, Emilia Romagna e la provincia autonoma di Bolzano. Quindi in questo caso il tecnico che deve eseguire appunto l'attestato di qualificazione energetica è riconosciuto dalla regione di riferimento. Di certificazione energetica deve essere riconosciuto. In tutte le altre regioni vale invece l'attestato di qualificazione energetica, che è quello che si diceva. L'attestato di qualificazione energetica invece lo può fare un qualsiasi tecnico abilitato. Io tremo al pensiero che devo ristrutturare casa e che avrei voluto fare anche lavori di questo tipo, e più vado avanti con i salvadanai su questo argomento e più ne divento consapevole. No, ma la procedura però, insomma, fondamentalmente è molto semplice, però sì, se c'è un bravo tecnico che mi segue sin dall'inizio, naturalmente, quindi anche qui il fai da te molto spesso cerchiamo di tenerlo alla larga. Tra l'altro voi come ANIT della consulenza in questo senso la fornite? Sì, insomma, sì, noi forniamo consulenza sia telefonica poi anche come società. Benissimo, di consulenza. Poi magari diamo tutti gli indirizzi anche di posta elettronica o comunque dei sito internet che sono necessari. Abbiamo citato i pannelli solari, andiamo a Catania allora da Renato. A Catania, credo come in tante altre zone della Sicilia, non è che stiate attraversando un ottimo momento dal punto di vista meteorologico. Renato, tutto bene? Sì, tutto bene, buongiorno a tutti. Siamo a 14 gradi con un bellissimo sole. Ah, è passato l'uragano nelle ultime ore, ma mi sono persa qualcosa, cioè l'avete proprio abbandonato. Ieri sera arrivava giù il mondo, questa mattina tutto bene, tutto bello, meglio. Ripeto, buongiorno a tutti, grazie di avermi chiamato e vorrei porre un paio di domande. Sì. Premesso che sto per fare un impianto a pannelli solari termici con relativa caldaia a condensazione e il boiler aggiuntivo, la prima domanda è: se io tolgo i termosifoni e metto giù il riscaldamento a pavimento, posso avere la detrazione fiscale del 55% dei lavori? Prima domanda. Sì. Seconda domanda è: io ho lasciato, o meglio lascerò la predisposizione anche per un termocamino insieme al boiler per far lavorare eventualmente termocamino, pannelli solari e caldaia in serie. Posso aver diritto fra un anno, fra due, se ci sono ancora gli incentivi, alla detrazione fiscale del 55% del termocamino? Grazie Renato, io ovviamente sventolo bandiera bianca perché sono molto poco padrona della situazione sugli interventi che ha chiesto Renato. Valeria Erba. Allora, per quanto riguarda innanzitutto il pannello solare, Renato, sì. Per quanto riguarda il discorso dei pannelli solari, sicuramente è uno di quegli interventi per cui è possibile richiedere le detrazioni. Per quanto riguarda, io mi sono segnata un po' quello che ha detto, la sostituzione dell'impianto di distribuzione, quindi lei ha sostituito dei radiatori con dei pannelli a pavimento. In questo caso, se è solo quello di intervento, non è possibile richiedere la detrazione, perché la detrazione spetta per una sostituzione proprio dell'impianto nel suo complesso, quindi con caldaia a condensazione, o anche per il 2008 non solo caldaia a condensazione ma anche caldaie ad alta efficienza, impianti geotermici e generatori di calore a biomasse. Quindi in questo caso potrebbe rientrare il caminetto di cui si parlava prima, ecco. Nella seconda parte della domanda, perfetto. Claudio da Monza, invece ritorniamo qua alle questioni fiscali. Claudio, sì. Buongiorno, benvenuto. Sì, una domanda molto semplice. Io ho rifatto i serramenti, però ho pagato con assegni e ricevute bancarie. Posso comunque portarle in detrazione o è obbligatorio il bonifico? Credo proprio di no, Claudio, credo proprio che non possa far niente. Luca De Stefani, questo no, è, come... è infatti. Perché è necessario effettuare un bonifico bancario e indicare nella causale del bonifico la legge agevolativa, il codice fiscale del soggetto beneficiario del 55% e il codice fiscale del soggetto beneficiario del bonifico. Insomma, bisogna conservare la traccia dei pagamenti e il bonifico è, come dire, il veicolo idoneo a questo, no? De Stefani. Sì. Bonifico bancario o postale, e poi sarà la banca o la posta che invierà questi dati all'Agenzia delle Entrate per i controlli incrociati nella dichiarazione di reddito. Ecco. Eccoci ritrovati di nuovo a Salvadanaio. Allora, stanno arrivando tanti messaggi, tante telefonate e anche molte mail all'indirizzo di Salvadanaio su tutti quelli che sono i lavori eseguiti a cavallo tra il 2008 e il 2009, per cui molti ascoltatori, visto che tutto sommato tra il 2008 e il 2009 la disciplina cambia leggermente per quello che riguarda appunto il diritto all'incentivo fiscale del 55% per lavori di riqualificazione energetica, allora magari cerchiamo di capire come comportarsi, anche se poi diciamo che ogni caso è anche abbastanza personale, però qualche indicazione di massima la possiamo dare, cogliendo magari qualche spunto dalla domanda di Lara da Bologna, che così la chiamiamo un po' ad interpretare la voce di molti su una questione simile. Lara? Buongiorno. Ci dica. Ecco, il mio quesito è questo: dovrei sostituire il portoncino d'ingresso della mia casa. Ho pagato un acconto nel 2008 con bonifico bancario e quindi con i riferimenti alla legge e tutti i requisiti minimi. La porta però non è ancora stata installata ed è chiaro che pagherò il saldo nel 2009. Come mi devo comportare? Posso portarmi in detrazione l'acconto che ho pagato nei 3 anni successivi e poi... Per quello che riguarda il saldo... Saldo in 5 anni. Lara, no, la prima cosa è il lavoro che ha fatto. Intanto ha il diritto all'incentivo di questo genere? Perché vedevo Valeria Erba che non era molto convinta. Ma chi fa i lavori mi ha detto che rientrano perché ha i requisiti minimi. Buongiorno. Sì, Lara, buongiorno. Aspetti un attimo che le faccio fare qualche domanda dalla nostra interlocutrice tecnica. Sì, buongiorno. Allora, io l'unica notizia, forse non molto positiva, che devo darle è che purtroppo a dicembre l'Enea ha, con un'informativa, comunque ha chiarito questo discorso dei portoncini d'ingresso, delle porte in generale. È un po' difficile entrare nel merito, nel senso che i requisiti minimi di resistenza termica delle strutture sono differenziati a seconda che siano finestre o pareti opache o quant'altro, e le porte d'ingresso rientravano nelle finestre. L'Enea attualmente invece ha chiarito che questo non è più possibile, quindi devono rientrare come se fosse una parete opaca, e lei capisce che la resistenza termica che può avere una parete opaca non è quella di un portoncino d'ingresso, e quindi hanno tolto, ma questo glielo dico da dicembre purtroppo, hanno tolto praticamente questa possibilità. E il fatto che lei abbia effettuato il lavoro, abbia comunque cominciato il lavoro prima, io adesso non mi ricordo, questa cosa mi sembra che è uscita verso metà dicembre, che lei abbia comunque effettuato il lavoro prima di quella data, potrebbe essere che glielo fanno rientrare, però ciò appunto ci potrebbero essere dei dubbi su questo. Allora facciamo una cosa: ammettendo che Lara gli venga riconosciuto il diritto all'agevolazione fiscale, Luca De Stefani, qui mi serve invece la sua competenza, può ottenere come dire il beneficio per l'acconto che ha versato secondo la disciplina che regola il 2008 e poi per il saldo invece la disciplina sarà quella del 2009? Certo, certamente. Per i pagamenti effettuati nel 2008 valgono le regole precedenti, mentre per quelli del 2009 ci dovrà fare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate nei prossimi mesi. Qualora Lara non possa ottenere il bonus del 55%, però ha fatto un lavoro di ristrutturazione della casa, può ottenere quello del 36% di manutenzione straordinaria dell'immobile. De Stefani, lei come la vede? Se ha fatto la comunicazione preventiva, cioè prima dell'inizio dei lavori, dell'installazione, oppure se la fa adesso, visto che deve ancora fare l'inizio dei lavori, a Pescara potrebbe rientrare nell'ambito della ristrutturazione, della manutenzione straordinaria, ecco, e quindi potrebbe rientrare nel 36%. Però per il portoncino d'ingresso è un po' difficile che rientri, ecco. Tra l'altro, io l'unico suggerimento che mi sento di dare a tutti coloro che ci ascoltano: fate i lavori in mezzo l'anno, cioè non andate ad accavallarvi tra dicembre e gennaio, perché vedo che qua poi escono fuori una moltitudine di problemi appunto a cui non riusciamo neanche noi a rispondere. Naturalmente, ovviamente, non è che sappiamo i tuttologi, che siamo i tuttologi delle questioni. Comunque andiamo avanti con altri ascoltatori. Chi è che è in attesa da un po'? Beh, tutti e tre. Andiamo con Sandro da Pordenone. Sandro, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Volevo fare una domanda. Io con un gruppo di amici stiamo costruendo delle case dove verrà rilasciata la classe di certificazione energetica. dove impianteremo anche fotovoltaico e solare. Volevo sapere, so che parlate di ristrutturazioni, ma ci sono, sono previsti incentivi, agevolazioni o qualsiasi forma, insomma, di contributiva per chi costruisce da zero in risparmio energetico? Grazie. Francesco, la ringrazio. Valeria Erba. Per quanto riguarda il discorso delle detrazioni del 55%, no. C'era la possibilità nel 2007, con la prima finanziaria che ha portato questo discorso, ma poi col 2008 è stato tolto sugli edifici nuovi. Tuttavia ci sono e sono tendenzialmente di solito delle leggi regionali o comunque degli incentivi regionali che danno questa possibilità per gli interventi sulle fonti, con fonti rinnovabili. Mm-hmm. Quindi io quello che gli consiglio è di vedere nella sua regione se ci sono queste possibilità. Di solito, per quel che riguarda le fonti rinnovabili, ci sono degli incentivi e delle agevolazioni. Uh-huh. Riccardo da Vicenza. Sì, pronto? Abbiamo beccato un tecnico. Sì, sono un tecnico. Abbiamo detto qualcosa che non va, non ci bacchetti subito. No, condivido un po' tutto quello che è stato detto. A parte la condivisione e anche insomma la correttezza tecnica di quello che emerge da qua, che è un altro paio di maniche, Riccardo, ci dica. Io mi sono occupato, tra l'altro ho fatto un sacco di attestazioni con le direzioni energetiche, e uno dei tanti tecnici che è rimasto intasato insieme al sito dell'Enea a fine anno, perché c'è stata quella situazione di panico dove tutti mandavano la comunicazione dell'Enea, anche se in realtà ci sono i 90 giorni dal fine lavori, per cui insomma è stata una conseguenza del decreto, insomma. No, la mia domanda era più allacciata un po' alla domanda di Lara, mi sembra che ha chiesto prima. I lavori fatti a cavallo, insomma, sì. Parecchi clienti che hanno si trovano in una situazione di cavallo fra i due anni, perché giustamente se uno prende in mano una casa, una ristrutturazione, fa una serie di lavori, è partito magari nel 2008, finirà nel 2009, quindi ha una certa, alcune fatture e pagamenti già eseguiti nel 2008 e alcuni che ne eseguirà nel 2009. A questo punto io penso che possano andare in detrazione i pagamenti del 2008 e quelli del 2009 li manderà in detrazione successivamente. Secondo i criteri nuovi. Però quindi dovrà mandare, presumo, la comunicazione all'Agenzia delle Entrate per il 2009, per i pagamenti del 2009. Sì, Luca De Stefani, se non abbiamo capito male rispetto a tutto quello che ci ha detto fino adesso, credo di sì. Certo, allora, riassumendo, per il 2008 non dovrà essere inviata nessuna comunicazione all'Agenzia delle Entrate e per ora nessuna comunicazione all'Enea. Si fa la dichiarazione di redditi, si porta in detrazione il 55% per il 2008, poi nel momento in cui si fanno i bonifici per il 2009 e si termineranno i lavori, dovrà essere inviata una comunicazione all'Enea per entrambi i lavori, i bonifici, sia per i lavori effettuati nel 2008 che per quelli del 2009, mentre la comunicazione all'Agenzia delle Entrate riguarderà solo i lavori pagati nel 2009. Mamma mia, speriamo di aver preso. Speriamo che abbiano preso appunti i nostri ascoltatori. Poi magari ci impegniamo anche a fare un'altra trasmissione. Ma per chi volesse orientarsi anche nella nuova normativa, dove gli facciamo cercare informazioni? L'ANET sicuramente si impegna adesso a rinnovare tutte le guide che ha costantemente pubblicato. E tra l'altro siete stati subito pronti anche con le novità di dicembre, sì, no? Sì. Noi cerchiamo sempre di mandare. Abbiamo una newsletter a cui tutti possono iscriversi e con diversi nominativi a cui mandiamo. Fate un capitolo a parte: i lavori a cavallo, li chiamiamo così e li comprendiamo subito quali sono, quelli tra il 2008 e il 2009 in particolare sono quelli. Francesco da Chieti. Francesco? Buongiorno, mi senti? Sì, un po' male però, proviamo. Voglio fare una domanda. Dunque, nel 2009 io dovrei fare dei lavori per insonorizzare acusticamente il mio appartamento. Il materiale che vado a utilizzare è anche materiale che serve per il risparmio termico, non solo acustico. Volevo sapere se posso usufruire dell'agevolazione del 55% e quali sono le procedure che devo eseguire per poter usufruire di tale agevolazione. Ascolto la risposta per radio. Grazie, okay. Francesco. Allora cominciamo con intanto la questione tecnica, poi andiamo a quella fiscale. Sì, dunque, allora, un materiale isolante termico spesso e volentieri agisce anche sull'isolamento acustico. Non è detto che sia sempre così, anche perché quando si parla d'acustica di solito si parla di un sistema, quindi non si parla di un materiale preciso. Detto questo, comunque probabilmente se lui ha usato ad esempio dei materiali in lana minerale o quant'altro, deve soltanto verificare che quello che lui ha posizionato come isolante, cioè, e quindi la struttura che è andato a modificare, che sia la parete rete, che sia la copertura o quant'altro, rispetti i requisiti termici previsti dal decreto dell'11 marzo 2008. Se rispetta quei requisiti per la termica, allora lui può detrarre il lavoro, l'intervento che ha fatto. Se non li rispetta, no. Non può. Eventualmente, ammettendo che li rispettasse, Luca De Stefani cosa deve fare per ottenere il beneficio fiscale? In questo caso rientra in gioco la comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Certo, certamente. Perché sono nel 2009, sì. Sì, questa comunicazione non è ancora stata approvata, verrà approvata entro 30 giorni dalla data in vigore del decreto di conversione, e dopodiché bisognerà appunto inviare all'Agenzia delle Entrate questa comunicazione, inviare all'Enea la comunicazione classica entro 90 giorni dalla fine dei lavori, acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato e che attesti la rispondenza di intervento alla legge, alla norma, fare i bonifici bancari o postali e conservare tutta quanta la documentazione. Ci rimane un minuto di tempo, allora io saluterei i nostri ascoltatori, vorrei fare un'ultima rosa di raccomandazioni, magari cercando di capire con Valeria Erba se ci siamo dimenticati di sottolineare qualcosa di importante relativamente a tutta la questione, ma soprattutto per chi deve fare dei lavori adesso al di là del beneficio del 55%, secondo lei come deve muoversi? Anche perché da quello che abbiamo capito molto spesso è proprio difficile per chi non è un addetto ai lavori intercettare l'esperto adatto, il tecnico adatto che ci sappia accompagnare in tutta la fase, dalla progettazione anche all'esecuzione dei lavori che ci interessano. Allora, dipende poi dalla tipologia dei lavori. Uno dei lavori che sono stati molto fatti in questo periodo, in questi ultimi due anni, è la sostituzione dei serramenti. I produttori di serramenti, devo dire che negli ultimi anni si sono adeguati molto e quindi riescono a rispondere un po' alle esigenze di chi ne fa richiesta, quindi conoscono abbastanza l'argomento, fanno loro l'asseverazione famosa sui serramenti, non c'è bisogno di certificazione energetica e quant'altro. Per tutte le altre tipologie di lavori, se l'impresa non conosce bene quelli che sono i limiti previsti per la legge per queste detrazioni, io consiglio comunque sempre di chiamare dei tecnici qualificati. Potete andare sul nostro sito, noi abbiamo dei professionisti associati di cui c'è l'elenco sul sito, il sito www.anit.it, oppure eventualmente mandarci anche un'email. E poi insomma, proprio in mancanza di meglio, c'è Salvadanaio che ogni tanto torna sulla questione. Grazie a Valeria Erba, Luca De Stefani per essere stati con noi, grazie a Gaia Romani, Valeria Coffaro per la collaborazione in redazione, Peter Bescapè in assistenza tecnica, Salvadanaio che torna domani. Parleremo ancora dei bot e dei titoli di Stato con i rendimenti ai minimi, dove va il risparmio degli italiani. A domani e buona giornata.